Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. "24 mattino" di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 19 minuti inizia la terza parte di 24 mattino. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia in questo martedì 14 luglio e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria, eccoci. Ciao, buongiorno, ciao a tutti. Tutto il mondo e paese, ma sì, ma sì, tutto vai, il mondo vai, e paese. Vai. Vi ricordate tutte le polemiche su, anche recenti, no? Portare la mascherina, non portarla. Ieri ne chiacchieravo con un tassista, mi diceva: ma è mai possibile che vedo gente che si mette la mascherina pure da sola quando è in auto? Queste sono, diciamo, eccessi. Però che cosa ci dice il Guardian questa mattina? Che la Gran Bretagna, che all'inizio era un liberi tutti, sta tornando passo dopo passo indietro. Perché adesso in Gran Bretagna, se voi entrate senza mascherina in un negozio, vi fanno la multa di 100 sterline, che non è poco. Ed è questa l'apertura della prima pagina del Guardian, che dà un po' l'idea di come stia andando, diciamo, piuttosto male la situazione Covid-19 in Gran Bretagna. Speriamo bene. Speriamo, speriamo davvero. Nel frattempo, noi qua in Lombardia non sappiamo esattamente come ci dovremmo comportare a partire dal 15 di luglio, perché funziona così, da domani bisognerà indossare la mascherina all'aperto, sarà obbligatorio solo se il distanziamento risulta impossibile, quindi evidentemente non so, me la devo portare dietro, la devo tenere là sul collo e quando vedo che il distanziamento risulta impossibile, la indosso improvvisamente. Sempre meglio che in Inghilterra, dove se non te la metti entrando a comprare, che ne so, un dentifricio, ti staccano subito 100 pound. Eccoci qua. Comunque eccoci questo qua. Dà l'idea della situazione non risolta un po' ovunque. Sì, assolutamente. Anche i dati che abbiamo visto dalla California e dalla Florida sono significativi. Allora, iniziamo parlando di autostrade oggi. Io non ho ancora capito, e magari Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e presidente di Italia Viva, ce lo sa dire, se oggi veramente il governo decide oppure no, perché anche questo non è chiaro. Buongiorno Rosato. Buongiorno a lei, buongiorno a voi. Ma non lo so, onestamente, so che ci sarà un'informativa del Presidente del Consiglio annunciato in Consiglio dei Ministri, vediamo se questa informativa porterà a qualche orientamento che poi il MIT, cioè il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Economia e Finanze dovranno trasformare in un cosiddetto decreto interministeriale che porterà poi a dover essere votato al Consiglio dei Ministri, quindi una procedura abbastanza lunga. Che però passa per una decisione politica. Bisogna o no, come bisogna comportarsi con autostrade? Bisogna o no fare la revoca? Questa è una discussione che va avanti da 2 anni, prima con il governo giallo-verde, oggi con il nostro. Senta Rosato, mi pare che ci sia una sostanziale unità di visione nel governo rispetto al fatto che le proposte che sono arrivate da autostrada non vengono considerate sufficienti. Il punto è che invece siete tutti d'accordo, mi pare, sull'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti, comunque vada la situazione. Secondo lei c'è una via ancora d'uscita? Cioè, che cosa potrebbe fare Autostrade? Mettere sul piatto più soldi? Scegliere, come dire, di ridurre ulteriormente la sua presenza? Perché è evidente che le proposte che sono state fatte dalla società non sono state considerate adeguate finora. Guardi, io penso che la prima cosa da fare sia quella di dire che si ritiene che la quota di Benetton vada diluita, e degli altri soci, perché Autostrade non è, ASPI non è solo in mano alla famiglia Benetton da anni, è che lo Stato entri in quella compagine societaria. Io personalmente sono sempre contrario alle statalizzazioni, ma in questo caso non è come per l'Ilva, non è un'azienda privata che costruisce acciaio, questa è un'azienda che gestisce una concessione dello Stato, quindi che lo Stato entri dentro e che dopo rifaccia ripartire il piano degli investimenti. Il contenzioso va fatto maturare fino in fondo, ci saranno processi penali, civili, ci sarà una giurisprudenza che si consolida su questo. Nel frattempo noi pensiamo che il prezzo che è la sanzione che deve pagare Autostrade oggi debba essere una sanzione commisurata al gravissimo danno che ha causato, intanto con la morte di 47 persone. Quello che non si può fare è continuare un dibattito demagogico sulla concessione, sulla revoca della concessione, perché la revoca della concessione apre un contenzioso tra Stato e privato che alla fine pagherà e premierà proprio i soci, dai benettoni in giù, tutti i soci di quella società. Ma lei è d'accordo? Lei è d'accordo sul fatto che questa concessione, se non sbaglio, risalente al 2000 e confermata poi, cioè governi Prodi, governi Berlusconi, è una concessione che credo non abbia precedenti nel mondo. Ecco, l'intera successione dei governi che ci sono stati finora e che questa concessione non hanno mai voluto rivedere non depone proprio a favore di come è stata gestita negli ultimi decenni la relazione con Autostrade, no? È d'accordo? Guardi, su questo? No, non sono d'accordo e mi permetto di eccepire sulla sua ricostruzione, perché la concessione fu rinnovata con un eccesso di favore nei confronti del concessionario nel 2008 dal governo Berlusconi, e io ero in Parlamento e votai contro, facemmo ostruzionismo quella notte contro questo provvedimento, e quindi ritenendo che quel regalo al concessionario fosse un regalo eccessivo. Dopodiché, dopo che c'è una legge dello Stato e c'è soprattutto un atto sottoscritto a monte di quella legge, è evidente che quella concessione in mano a chi ce l'aveva è stata fatta valere fino in fondo. Oggi non si tratta più di andare a capire se la storia l'abbiamo capita, c'è stata una forte pressione quella volta che è sfociata in un favore ai concessionari. Oggi però quello che noi vediamo è che gli investimenti che dovevano essere fatti non sono stati effettuati, e anche persino il periodo del Covid, lo dico colpevolmente per il nostro governo, non è stato sfruttato per dire sistemiamo quelle gallerie. Abbiamo avuto i lavori fermi e le gallerie vuote per poi riprendere tutto quando il Covid era finito. Oggi dobbiamo tenere qual è l'interesse dello Stato. L'interesse dello Stato è che quelle strade funzionino e che i danni che sono stati che sono derivati dalla cattiva gestione della concessione vengano pagati dal concessionario. Non dobbiamo aprire un grandissimo, enorme, lunghissimo contenzioso giudiziario che porterà a nulla di fatto e che potrebbe portare perfino allo Stato soccombente in questa vicenda. Sì. Senta Rosato, ma cos'è c'è esattamente che non va nella proposta arrivata da Atlantia, arrivata da Autostrade? Guardi, io la proposta Atlantia non l'ho neanche commentata, perché l'ha commentata il Presidente del Consiglio dicendo che è inadeguata. Bene, se la proposta è inadeguata, che faccia una controproposta, ma soprattutto che arriviamo, sono 2 anni che si sta discutendo di proposte e controproposte. Io credo che il Presidente del Consiglio è sempre lo stesso, 2 anni sono sufficienti per chiudere questa vicenda, anche perché questi 2 anni non sono serviti per fare una manutenzione in più. Ecco, quindi penso che l'interesse pubblico sia nel rendere finalmente chiusa questa vicenda ed arrivare a una definizione che aiuti gli italiani a stare tranquilli quando girano per le nostre autostrade. Rosato, abbiamo visto l'impatto ieri in borsa delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Conte e le preoccupazioni conseguenti che stiamo vedendo in queste ore con il fatto che un'ipotesi di revoca della concessione potrebbe portare al default dell'azienda e a tutta una serie di problemi a cascata, dai 750 milioni di obbligazioni retail nelle mani di 17.000 risparmiatori, passando per il debito che l'azienda ha nei confronti delle banche. Secondo lei Conte avrebbe dovuto tacere ieri? Guardi, io penso che Atlantia e Aspi hanno un debito complessivo di 20 miliardi sul mercato italiano e 46 miliardi, se non ricordo male la cifra, sul mercato globale. Che si tratta del più grande investitore in infrastrutture al mondo, ha investimenti dappertutto. Sì, ma Conte ha sbagliato ieri, Rosato? Ma io non avrei parlato per due anni. Se c'è un'intenzione di arrivare a una certa definizione con la società, ci si arriva in silenzio. Lo Stato non ha bisogno di comunicati stampa, lo Stato parla per atti. Alimentare tensioni sui mercati borsistici non è un interesse dello Stato. Lo Stato parla con le leggi, lo Stato parla con i decreti, non parla con i comunicati stampa e con i post su Facebook. Mi sembra, soprattutto su questi temi sensibili che hanno generato speculazioni sui mercati finanziari. Io la penso così, vale per il presidente Conte come varrebbe per chiunque. Maria. Tra l'altro c'è un aspetto di cui per ora non ci siamo occupati, che è quello della presenza tedesca e cinese nell'azionariato di Autostrade. I soci tedeschi e quelli cinesi, si legge questa mattina sui giornali, hanno espresso preoccupazione per le decisioni che devono essere prese. Lei trova che sia, come dire, un elemento di pressione sul governo questo? Ma guardi, ci sono anche soci americani, ci sono soci internazionali in quella società, che appunto è una società globale. Io penso che siano risparmiatori italiani o che siano investitori, che sono i fondi pensione americani, per esempio, che investono in Atlantia, bisogna avere rispetto. Certo, hanno assunto un investimento in un capitale di rischio, e questo, il capitale di rischio, comporta sempre le ale che questi tipi di investimento hanno. Però lo Stato non può essere agitatore del mercato, lo Stato deve essere stabilizzatore del mercato, lo Stato deve fissare le regole, lo Stato deve, di fronte a un danno gigantesco come quello che è stato effettuato, utilizzare la giustizia civile e amministrativa fino in fondo, usare le regole che sono previste dalla convenzione per regolare il rapporto con il concessionario, ma deve farlo in un tempo ragionevole e deve farlo con gli strumenti che non sono strumenti di interferenza sul mercato. Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha chiesto un assetto societario che veda lo Stato al centro di una nuova compagine azionaria che assicuri l'avvio di una nuova fase. Cioè, tradotto, mi sembra di capire, torno alla prima domanda che le ho fatto, una forte presenza, no, di Cassa Depositi e Prestiti. Quindi su questo voi di Italia Viva siete d'accordo? Noi lo abbiamo lanciato settimane fa questo, abbiamo detto che la società lanci un aumento di capitale che viene sottoscritto dal pubblico, da Cassa Depositi e Prestiti, dagli strumenti pubblici che abbiamo a disposizione. Questo diluisce la quota dei privati attualmente presente e consente anche una soluzione più semplice, evidentemente, essendoci lo Stato in maggioranza all'interno del contenzioso con la società. Risolverebbe una serie importante di problemi. Adesso però bisogna agire di conseguenza. Se ci sono se un pezzo importante del governo, lei lo ricordava, anche il Partito Democratico, che dice questa cosa, bisognerebbe che, invece di alimentare polemiche sulle revoche, bisognerebbe agire di conseguenza. Un'ultima domanda, Rosato, ma questa presenza ai CDP voi la immaginate come transitoria o immaginate che a questo punto lo Stato entra in Autostrade, entra nella gestione di Autostrade e non ne esce più? No, io penso sempre a una gestione transitoria di un veicolo che stabilizzi, che regoli, che rafforzi il settore infrastrutturale in un periodo, non dimentichiamolo, che non tiriamoci fuori da un contesto. Questo è un contesto di economia drammatica, dove c'è bisogno di grandissimi investimenti per far ripartire l'economia. È una grande occasione quella della realizzazione delle autostrade anche al sud, dove sono più carenti, ma non è solo il sud, ci sono pezzi importanti del nord che richiedono investimenti infrastrutturali che potrebbero consentire quindi di rilanciare anche una spinta sull'economia attraverso questo strumento. È un'opportunità da cogliere anche per il momento storico che stiamo vivendo. Poi io non penso che lo Stato debba fare l'azionista, io penso che lo Stato debba fare il regolatore, ma in una situazione di doppia emergenza, da una parte il contenzioso con Atlantia, dall'altra parte la devastante crisi economica che sta attraversando il nostro paese, spingono per una soluzione di questo tipo. Grazie Ettore Rosato, Presidente di Italia Viva, per essere stato con noi. Buona giornata Rosato. Ci fermiamo una pausa, ci ritroviamo tra un attimo e partiremo da questo incontro che, insomma, Maria, pare che non sia andato proprio benissimo questo incontro tra Angela Merkel e Giuseppe Conte. Merkel è una grande negoziatrice, vedremo come andrà la soluzione. A tra un attimo. Mattino. Ed eccoci di nuovo, tra un attimo parleremo appunto di Europa e di Merkel, però cara Maria, qualche ascoltatore dice giustamente, è vero, ormai delle responsabilità di ASPI e di Autostrade per l'Italia abbiamo parlato all'infinito, forse qualche nota in più andrebbe fatta sui mancati controlli, ci sarà da tornarci mi sembra su questo argomento e quindi su come credo, effettivamente sì. Lo Stato ha controllato. Credo che la Procura di Genova su questo stia indagando. Purtroppo dal crollo tragico di quell'agosto, il procuratore Cozzi ha già in più occasioni messo in luce il fatto che i controlli per decenni pare, no? Esatto, siano stati fatti. Esatto. E non solo su quel tratto. Sì, ed è un po' anche il sistema, però ovviamente anche questo. Dunque, veniamo all'Europa e partiremo da qua, poi toccheremo anche il tema del sud-est asiatico e dei nostri rapporti con la Cina. Perché è particolarmente importante anche per la nostra impresa. Come no, senza ombra di dubbio. Stanno guardando di nuovo da quella parte. Sì, sì, ed è un tema anche di rapporti diplomatici delicati, soprattutto in questo periodo e con queste forze di governo. E però partiamo naturalmente all'incontro di ieri tra Angela Merkel e Giuseppe Conte, questa trattativa per il Recovery Fund che prosegue non sempre felicemente. Enrico Letta, ex presidente del Consiglio, direttore della Scuola di Affari Internazionali dell'Istituto di Studi Politici di Parigi e oggi qua con noi anche in veste di presidente dell'Associazione Italia ASEAN. Buongiorno Letta, benvenuto. Grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Caracciolo, benvenuto. Buongiorno. Anche a lei, eccoci. Buongiorno. Qua all'ASEAN, l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Limes è appena uscito tra l'altro con un numero dedicato esattamente a questo in collaborazione con l'associazione presieduta da Enrico Letta. Letta, inizierei con lei. Le distanze continuano ad esserci, richieste dell'Italia forse un po' troppo forti in termini di condizioni richieste per accedere ai fondi. Ma guardi, la questione chiave secondo me alla fine sono i tempi di tutta questa operazione e su questa vicenda siamo, la Germania e l'Italia sono sulla stessa linea. Noi abbiamo disperatamente bisogno che non si ritardi, che non si vada alle calende greche, che il Consiglio europeo di giovedì e venerdì arrivi a una soluzione, venerdì e sabato arrivi a una soluzione. Se non è quello che uno della settimana prossima chiuda la partita, noi abbiamo bisogno di tempi stretti, questa è secondo me la cosa fondamentale, tra l'altro mi sembra che sia totalmente condivisa da Merkel e Conte. Poi sì, certo, l'Italia ha una serie di posizioni sulla modalità e sulle forme con i quali queste risorse saranno applicate, però guardiamo la sostanza, stiamo parlando di una quantità di risorse immense che non abbiamo mai visto e che forse non vedremo mai più, quindi la questione essenziale è che tutto questo avvenga, che ci sia, che non sia bloccato nella fase dell'implementazione e che soprattutto l'accordo tra i paesi europei ci sia. E in questo senso, mentre con la Germania 10 anni fa eravamo su sponde opposte, quando nella crisi precedente la Germania frenava e non era sulla stessa linea italiana di cercare di dare una risposta alla recessione che stava arrivando anche con strumenti europei. La Germania diceva, insieme ai paesi nordici, No, la risposta europea è solamente di tipo finanziario, poi ogni paese se la vede sui suoi problemi sociali o di economia reale. Questa volta la Germania ha cambiato posizione, è su una posizione simile a quella dell'Italia, della Francia e della Spagna, però bisogna che tutto questo, ripeto, sia applicato, altrimenti vale per l'Italia ma vale anche per tanti altri, passeremo i prossimi mesi con grandissime difficoltà, perché le imprese hanno bisogno di risorse, nel nostro sistema c'è bisogno che circolino risorse finanziarie e che tutto questo avvenga rapidamente. Una domanda per Enrico Letta e poi invece a Lucio Caracciolo una visione più complessiva. Lei in un'intervista tempo fa disse: smettiamo di chiamarli frugali questi paesi, l'Olanda, la Danimarca, chiamiamoli col loro nome, che sono avari. Non vengono poste delle richieste solo all'Italia o alla Spagna o alla Francia, anche all'Olanda per esempio o all'Irlanda l'Unione Europea chiede di modificare il sistema fiscale che finora li ha resi, diciamola tutta, no? Dei veri e propri paradisi fiscali per una tassazione estremamente conveniente che va a detrimento dell'Italia, della Spagna e di tutti gli altri paesi che vedono andare in Olanda, mettere in Olanda le sedi fiscali di molte loro aziende. Le chiedo: quanta pressione può fare l'Unione Europea su questo punto? Cioè, quanta pressione può fare l'Italia o la Spagna su Rutte per dire: bene, noi certamente ci atterremo alle richieste di riforme che ci vengono poste da Bruxelles, ma voi pure fate i compiti a casa. Questa è una partita che ha a che fare con un grande cambiamento avvenuto negli ultimi mesi. Questo grande cambiamento è l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Dirà cosa c'entra. C'entra perché la Gran Bretagna nei 40 anni in cui è stata dentro l'Unione Europea c'è sempre stata mettendo il veto sul fatto che non ci fosse nessuna armonizzazione fiscale, cioè che sulle tasse Bruxelles non mettesse becco su quello che faceva ogni paese, che ha voluto dire che ogni paese ha fatto come ha voluto e quei paesi, aggiungerei anche Lussemburgo per essere completi, quindi soprattutto Irlanda, Olanda e Lussemburgo, hanno costruito dei sistemi fiscali che loro chiamano molto attrattivi, in verità hanno caratteristiche di veri e propri paradisi fiscali per certi versi, una sorta di dumping fiscale che, avendo la stessa moneta, non è più sopportabile. La Gran Bretagna esce, oggi ci sono le condizioni perché complessivamente la questione dell'armonizzazione fiscale venga messa sul tavolo. Io spero che questo sia uno degli obiettivi dei prossimi anni. Certo, non è una roba che si fa con la bacchetta magica e non è una questione che che si può mettere sullo stesso piano in termini di contropartita con il via libera al Consiglio europeo di questa settimana sul recovery plan, perché stiamo parlando di una questione che ha a che fare anche con riforme di sistema, quindi più complesse, più ampie, che hanno quindi bisogno e probabilmente necessiteranno tempi più lunghi. Ma è indubbio che questa sia una grande questione, che non è soltanto una questione di disuguaglianze da recuperare, certo c'è anche quello, ma è una questione proprio di competitività del sistema dell'euro e dell'area dell'euro. Non si può essere competitivi con il resto del mondo se all'interno di questo stesso sistema esistono queste forme di asimmetrie così pesanti che creano i problemi che noi conosciamo. Quindi, Letta, mi scusi, negli Stati Uniti esistono serenamente, il paese è ampiamente competitivo, come sappiamo. In Svizzera esistono, il paese è competitivo, intendo, no, tra cantone e cantone, tra Stato e Stato americano, penso al Delaware, tanto per fare un esempio, e tutto funziona alla perfezione. Ma esiste il caso del Delaware, però francamente è un caso abbastanza unico. Nella nostra situazione, e non è certo quello che fa sì che le imprese che siedono della Silicon Valley vadano a cambiare la loro residenza fiscale per questo motivo. Nel nostro caso c'è un problema, secondo me, più complesso, l'abbiamo visto nel caso italiano, troppe imprese italiane che hanno sedi lì e credo che sia un problema anche, le faccio un esempio, guardi, quando 5-6 anni fa la Francia fece una tassazione progressiva e cambiò il suo sistema, alla fine metà di dei capitali tassati se ne andarono in Lussemburgo, molto semplicemente, perché lì dietro è praticamente come se fosse Francia e la cosa si chiude lì. Quindi È evidente che per un sistema fiscale che possa non essere eccessivamente pesante nei confronti del contribuente c'è bisogno che ci sia una situazione, diciamo, di fairness, di correttezza. Se questa situazione non c'è, semplicemente i capitali se ne vanno e ogni sistema, il caso del nostro, è costretto a essere più cattivo di quanto dovrebbe essere. Quindi io penso che anche per l'Italia sarebbe un grande interesse riuscire a trovare un equilibrio in questo senso. Maria, prego. Se no rimaniamo soltanto noi a essere tassati. Senta, Lucio Caracciolo, a proposito... Visto che siamo un inferno fiscale, cioè se ci sono paradisi fiscali di là, questo è un inferno fiscale, mi sembra che non ci sia dubbio. Chi resta prego, qui prego. Resta solo, solo è tassato, no? Tutti gli altri invece felicemente fuori. Lucio Caracciolo, col numero di Limes che esce appunto a luglio, si guarda... lontano, si guarda all'Indo-Pacifico, a tutte quelle aree dell'Indonesia, al Vietnam, che sono diventate, diciamo, un punto di riferimento prezioso per le imprese italiane. Qual è la fotografia oggi dei rapporti tra l'Italia e questa area del mondo? Ci occupiamo di quell'area che in questo momento è direttamente attraversata dalla competizione fra Cina e Stati Uniti, che ormai più che una competizione rischia di essere un vero e proprio scontro, anche con prospettive di qualche miccia militare che potrebbe accendersi in quei mari. Quella partita in realtà non è una partita a due, è una partita in cui entrano diversi altri attori regionali, a cominciare dal Giappone e poi i paesi dell'ASEAN. Questi paesi, tra cui alcuni anche di grande rilievo come l'Indonesia, il Vietnam, la Malesia, che sono in qualche modo schiacciati tra l'incudine e il martello, tra la voglia degli americani di spingerli a chiudere i cinesi entro le loro coste e impedirgli di allargarsi nell'oceano, e la pressione cinese che deriva anche dal fatto che tutti questi paesi hanno delle relazioni commerciali ed economiche più o meno forti con la Cina, oltre ad ospitare delle comunità cinesi molto numerose. L'Italia, anche grazie all'associazione presieduta da Enrico, è molto presente negli ultimi tempi in quest'area, o comincia ad essere presente, anche perché con il cosiddetto decoupling, cioè con la divisione tra Cina e Stati Uniti dal punto di vista economico, si aprono delle prospettive di spostamento di risorse, investimenti, iniziative economiche dalla Cina verso questi paesi. Caracciolo, la crescita di quest'area del mondo si è inevitabilmente confrontata con questi ultimi anni di, come vogliamo chiamarla, volontà di potenza della Cina, questa crescita della Cina sullo scenario geopolitico, cosa che prima non aveva, era molto rivolta all'interno, alla sua crescita interna, e col cambio di vertice sta modificando il suo atteggiamento. Ed è un problema col quale ci stiamo confrontando anche noi. Insomma, l'impressione è che l'arrivo di questo grande attore sullo scenario stia sconvolgendo sia quel lato del mondo, sia questo. Sì, ma è impossibile immaginare che un paese di 1.400.000.000 di abitanti, che per 40 anni è cresciuto a tassi quasi del 10%, qualche volta oltre, si fermi all'economia. È chiaro che ha delle idee che se le fa crescere e che ora ha delle ambizioni che prima non aveva. Allo stesso tempo è un paese molto più fragile di quello che sembra, come il caso di Hong Kong evidenzia, come anche l'allontanamento di Taiwan dalla Cina evidenzia, come anche le spaccature interne, penso al Tibet, al Xinjiang, dentro la Cina mettono in rilievo. Quindi è un colosso con i piedi d'argilla. A proposito di Cina, Enrico Letta, citavo prima il Guardian, ma anche il Daily Telegraph questa mattina hanno tutti e due la notizia che Boris Johnson è stato costretto a rivedere la sua decisione sul 5G. Sul 5G è in atto una vera guerra a bassa intensità tra gli Stati Uniti, che chiedono la prova d'amore ai loro alleati, e la Cina, che dice: beh, ma come, magari avete firmato degli accordi e adesso ci ripensate. Come andrà a finire? una partita che non finisce qua, ma sarà molto lunga. Se noi pensiamo semplicemente all'evoluzione dei G, pensiamo a che ruolo ha avuto la Cina in questa evoluzione. All'inizio era semplicemente spettatore, poi ha cominciato 3G, 4G a entrare e a guardare che cosa succedeva, adesso sul 5G è protagonista. Fa il paio con la rapida sintesi del Lucio Caracciolo, molto ben fatto, dell'evoluzione della Cina. Il mondo di domani sarà un mondo diviso tra due polarità, Stati Uniti e Cina. La tecnologia sarà il grande campo di battaglia di questa evoluzione e noi singoli paesi europei, secondo me, abbiamo due strade davanti. La prima è fare appunto come gli inglesi, cioè andare ognuno per conto proprio. Gli inglesi col Brexit l'hanno fatto. Se facessimo ognuno di noi altri, gli italiani, gli spagnoli, i tedeschi, i francesi, la stessa cosa, avremmo fra qualche anno, con la crescita ulteriore del ruolo della Cina e la potenza americana dall'altra parte, semplicemente da scegliere se essere una colonia americana o una colonia cinese. L'Europa serve e servirà in futuro proprio a questo, a creare una terza posizione nella quale possiamo riconoscerci, nella quale alla fine ci rendiamo conto che siamo molto più simili a spagnoli, francesi, tedeschi, piuttosto che a cinesi o anche ad americani. E credo che questa sia la partita chiave. In fondo la vicenda dell'ASEAN per me è un'avventura molto interessante. Abbiamo creato questa associazione no profit, lo dico per chiarezza, e quindi è semplicemente un modo per ridare all'Italia un po' di impegno per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane in un'area del mondo in cui siamo meno forti di quanto potremmo essere. Bene, Europa e ASEAN hanno la stessa situazione, si trovano schiacciati tra questi due giganti e possono in questo senso giocare di sponda reciprocamente. Non dimentichiamoci che le due più importanti e interessanti accordi commerciali che l'Europa ha fatto recentemente sono: uno col Vietnam, entra in vigore attualissimo il 1° di agosto, nel numero di Limes, un numero molto fatto molto bene, se ne parla ampiamente. Vietnam, paese interessantissimo per le nostre imprese, e l'altro con Singapore, anche quello in fase di finalizzazione. Quindi una dinamica molto interessante, e guardate che il futuro dell'Italia si gioca non rinchiudendosi dentro se stessa. Le imprese italiane vincono andando nel mondo, come anche è successo negli ultimi decenni, dove l'Italia si è tenuta in piedi grazie a una grandissima capacità di export del Made in Italy. Sì, giusto che l'Europa debba avere una sua posizione, ovviamente, nei rapporti tanto con la Cina quanto con gli Stati Uniti. Letta, però la corsa geopolitica cinese è intensa e molto rapida, e il rischio che la risposta europea arrivi troppo tardi oggettivamente c'è. Nel frattempo, che atteggiamento dovremmo avere come Italia? Cioè, penso per esempio al caso di Hong Kong, no? Siamo stati tiepidi, secondo lei? Guardi, io penso che l'Italia sbaglia quando pensa di essere in grado di parlare a cinesi e americani, quando c'è Trump di mezzo sul protezionismo o quando ci sono i cinesi sulle altre questioni che abbiamo parlato fino adesso, da sola. Così come sbaglierebbe la Germania se facesse così, o sbaglierebbe la Francia. Di fronte a questi giganti, l'Italia o la Germania o la Francia da sole sono incapaci di avere la forza d'urto di farsi capire. Con la Cina e con gli Stati Uniti bisogna parlare in quanto Europa, allora capiscono. Allora, e quando l'Europa tace, quando l'Europa tace, e quando l'Europa tace, Letta? Si fallisce tutti. Però guardi che l'Europa tace quando i paesi europei decidono di fare per conto loro, cioè decidono che ognuno vuole giocarsela per conto proprio, ed è questo il problema della sovranità. La sovranità, quando la si pensa di interpretare da soli, troppo piccoli, semplicemente sfugge di mano. Bisogna riacquistarla europea. La cosa importante, secondo me, da recuperare a livello europeo adesso è una delle due bandiere che questa Commissione, la Commissione von der Leyen, aveva messo all'inizio, a novembre, a dicembre, e che adesso deve assolutamente recuperare. Le due bandiere della Commissione sono state climate change, da una parte, il cambiamento climatico, sì, ma dall'altra parte la tecnologia, tanto che Margrethe Vestager, la vicepresidente, ha una competenza generalizzata su questo tema, e io su questo sono ottimista. Noi non abbiamo perduto quella battaglia sulla tecnologia, stiamo perdendo alcune battaglie sulla tecnologia, ma quella dell'umanesimo tecnologico, cioè di una tecnologia che rispetti la centralità della persona, penso a tutto il tema della protezione dei dati, sì, personali, il rapporto con l'intelligenza artificiale. Quella nel mondo siamo, senta, noi. Senta, sì, Alessia, dobbiamo, mi perdoni, dobbiamo che mancano pochi secondi, ma tutte queste voci che vedono sotto pressione per fare il sindaco di Roma, cosa c'è di vero? Ma io, a parte che io non le vedo tutte queste voci, ma comunque l'ho già detto e lo ripeto, io non sono romano, quindi non faccio altre cose in questo momento. Penso che sia importante che per Roma ci sia un bravo, una brava sindaca romana, ce ne sono tanti e credo che verrà scelto un buon sindaco romano. Grazie Enrico Letta, grazie Lucio Caracciolo, grazie a entrambi per essere stati con noi. Buona giornata, buon lavoro, cara Maria. Buona giornata. Domani alle 8:20 ci risentiamo, forse con la decisione su autostrade, o forse no, chissà. Comunque ne parleremo. Comunque, chissà, ovvio, eh? ovvio. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.